si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati e l'appuntamento alle 12 il sabato e la domenica con l'altra cronaca su Radio 24, le nostre buone notizie, le nuove tendenze che ci salveranno. Adesso cominciamo subito a leggere qualche notizia. Intanto vi ricordo i contatti, potete intervenire in diretta 800 24 00 24, e poi cercateci su Facebook, si può fare trattino Radio 24, e su Twitter si può fare 24, dove ci teniamo costantemente aggiornati. Allora iniziamo, questa è davvero una buona notizia. In Abruzzo la Micron, una multinazionale americana di microelettronica, aveva annunciato di voler abbandonare lo stabilimento di Avezzano, 1623 posti di lavoro, questo qualche mese fa. Poi il mese scorso, la svolta, un ex manager dell'azienda, tal Sergio Galbiati, ha deciso di dimettersi e di acquistare il 51% dell'azienda, cioè diventa proprietario insieme a un'altra società tedesca, e vogliono rilanciare questo stabilimento di microelettronica in Abruzzo, che dà da lavorare a un sacco di persone. Si parla sempre della Fiat, ma non si parla mai d'altro. Ci sono tanti altri poli industriali importanti, questo è uno di questi, e noi avevamo cercato tra l'altro di coinvolgerli, di invitarli in trasmissione. Adesso hanno ancora le carte un po' segrete lì ad Avezzano, perché devono trovare l'accordo con i sindacati, però insomma siamo sulla buona strada per salvare un bel po' di posti di lavoro, e questa è senz'altro una buona notizia. L'altra buona notizia da cui partiamo oggi è che a Milano oggi alle 2:30 parte dal centro città una manifestazione, un appuntamento per una mobilità nuova, pedoni, pedali e pendolari, questo è lo slogan, per una mobilità nuova. È una manifestazione indetta da un sacco di associazioni per fare pressioni sul Parlamento e sul governo, per fare delle leggi a livello nazionale per incentivare la nuova mobilità. C'è poco da fare nelle grandi città, ma anche nelle medie città si sta meglio se la macchina non si usa e si può fare affidamento sui mezzi pubblici e su tante altre cose. Alle 14:30, mobilità nuova da Milano, ne parleremo tra poco con un ospite. Chissà se il Parlamento, il governo Letta avranno orecchi per intendere questa cosa qua, perché se non si parte da qualche idea per far ripartire lo sviluppo con un'economia nuova, per esempio basata anche su una mobilità nuova, non c'è versi, l'occupazione non si crea, non succede nulla, è tutto fermo, ci vogliono idee. Allora noi oggi vi chiediamo, intanto, visto che siamo sul tempismo con la nascita del governo Letta questa settimana, il discorso, la fiducia, i sottosegretari, 800 24 00 24, cosa ne pensate? Se vi piace o non vi piace questo nuovo governo Letta, e insomma, dicevamo, idee per rilanciare lo sviluppo. Noi e i nostri ascoltatori ne abbiamo una fissa in mente. Ritengo che per risolvere i problemi del lavoro di tanta gente eccetera occorrerebbe fare un progetto da parte della pubblica amministrazione tipo genio civile per salvaguardare il territorio, mettere in sicurezza il territorio, e può essere finanziato da parte dello Stato senza indebitarsi, ma vendendo qualche bene che tiene in tutte le province d'Italia, comprese solo le sedi delle province. Con questi soldi potrebbe finanziare i progetti seguiti dalla pubblica amministrazione ed aperti a tutti i disoccupati o a quelli che non hanno lavoro, e anche a quelli che hanno la cassa integrazione, che dovrebbero scegliere se lavorare o no. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà, tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Un Un'economia nuova può essere anche quella che riparte grazie ai beni economici confiscati alle mafie e rimessi in circolazione. Quello che è accaduto ieri con un bar, il Bar Italia a Torino, adesso Bar Italia Libera, in via Veglia, siamo nella zona verso Brugliasco a Torino. E allora, ieri l'inaugurazione, oggi ci torniamo con Maria José Fava, responsabile di Libera per il Piemonte. Buongiorno Maria José. Buongiorno, grazie per averci chiamati. Allora, insomma, una bella notizia, ogni tanto voi di Libera ne proponete, ne pensate 10, ne fate 100. Ieri intanto una giornata di festa, immagino, un bar ridato dopo 2 anni alla città. Esatto, ieri è stata una giornata di festa, una bella inaugurazione alla quale hanno partecipato tantissimi cittadini, tantissime persone del territorio, ma la cosa bella è che era accanto a noi, accanto a Don Luigi Ciotti, c'era anche un pezzo delle istituzioni, proprio quelle istituzioni che si impegnano in prima linea contro la lotta alle organizzazioni criminali, perché c'era dalla forza di polizia, la questura, la prefettura, quindi una rappresentanza, la procura, il tribunale. Giusto ricordare tutti da questo punto di vista, senz'altro. È una giornata di festa, un bar, il Bar Italia, adesso Bar Italia Libera, dicevamo, che torna a disposizione della città dopo 2 anni di sequestro, un luogo dove invece in passato accadevano delle cose nefaste, era il bar dell''Ndrangheta. Qual è la storia di questo bar? Allora, il bar, da quello che emerge, il bar in questo momento è ancora sequestrato perché il processo è in corso, però appunto grazie alla disponibilità di tutti abbiamo deciso di riattivare questo bar anche in un momento ancora di passaggio che è quello del sequestro. Il bar, da tutte le indagini, dal lavoro della procura, delle forze di polizia, era uno dei centri di emerge come uno dei centri nevralgici dell''Ndrangheta per quanto riguarda la provincia di Torino, il Piemonte, ma il nord Italia. Era un luogo di affiliazioni, era un luogo di cambi, di taglio della coda, era un luogo nel quale venivano... Di che cosa, scusa Maria, cos'è il taglio della taglio coda? Che della cos'è? Coda, che è il momento nel quale nel rito di affiliazione una persona che è esterna all''Ndrangheta entra a farne parte. Cioè, quindi proprio era talmente importante questo bar che lo facevano lì questo rito. Certo, alcuni dei pentiti... che appunto sono nei processi per il nord Italia ci dicono che questo era un luogo benedetto dall''Ndrangheta, quindi un luogo nel quale si potevano fare riti di affiliazione, nel quale venivano decisi gli appalti, nel quale venivano decisi come suddividere i lavori, nel quale veniva data l'autorizzazione. E questo io però lo voglio dire ai cittadini del nord che ci ascoltano, quelli che sono ancora convinti che l''Ndrangheta e la mafia siano un problema del sud, che vedete non è così, cioè questo era un bar nel quale avveniva tutto questo, affiliazioni, gestione dell'organizzazione, gestione degli appalti e naturalmente magari all'incontro anche con qualche politico, perché in Piemonte c'è un'inchiesta che coinvolge anche alcuni politici. Quante persone adesso lavorano a questa nuova vita del Bar Italia? Lavorano 3 persone, perché poi una cosa è il passato di questo bar e quello che è stato, una cosa è il futuro. Questa mattina alle 7 abbiamo tirato su le serrande, la prima persona che è venuta a prendersi un caffè è stato proprio Don Luigi Ciotti prima di partire per andare a fare un intervento fuori Torino. Lavoreranno 3 persone, una di queste in mobilità, l'altra era in mobilità, altre 2 ragazze giovani, perché una delle scommesse più importanti dei beni confiscati, dei beni sequestrati, è costruire lavoro, costruire economia. Certo. E soprattutto continuare l'attività quando iniziano ad operare nella legalità, perché spesso queste attività economiche, quando vengono portate avanti dalle organizzazioni criminali, si reggono anche su proventi illegali. La nostra scommessa è farle reggere solo su proventi legali. E mi raccomando, cercate di fare un buon caffè, perché un ottimo caffè, e tutti gli amici di Torino, mi raccomando, della zona, andate al Bar Italia Libera a bervi un bel caffè adesso e vedere che aria si respira. Insomma, non so se Maria José hai a disposizione qualche dato, così per chiudere, quanti beni negli ultimi anni, nell'ultimo periodo a Torino o in Piemonte, altre storie come questa di cui abbiamo parlato oggi, perché è solo una goccia nel mare, no? Quante altre? Allora, i beni confiscati in Piemonte sono 162, e in più ci sono 13 aziende confiscate. Diciamo che questa del bar è la prima esperienza nel quale ci buttiamo in un'attività economica. Gli altri beni che sono stati riutilizzati erano cascine, erano appartamenti che sono diventati magari sedi di associazioni o luoghi di percorsi di educazione alla legalità. Questa è la prima sfida economica, che però è veramente fondamentale. Questo è il primo bene nel quale noi come Libera in Piemonte lavoriamo nella fase del sequestro, perché di solito il riutilizzo è quando c'è la fase definitiva della confisca. Benissimo, grazie Maria José Fava, responsabile di Libera in Piemonte. Vi aspettiamo tutti a prendere un bel caffè al Bar Italia Libera. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor. Le gambe snelle, dormite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai, con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore. L'abbiamo detto, insomma, oggi a Milano, da Milano, parte un movimento per una mobilità nuova. L'avevamo anticipato la settimana scorsa, questo appuntamento. Adesso però, visto che siamo arrivati al dunque, vogliamo tornarci su con Damiano Di Simine. Buongiorno Damiano. Buongiorno a voi. Che è presidente di Lega Ambiente Lombardia, uno degli animatori della sua organizzazione, ma insomma tante associazioni. Quante sono, Damiano? Ma abbiamo perso un po' il conto, comunque abbiamo superato le 200 organizzazioni, piccole e grandi, che in qualche modo hanno comunicato la loro adesione e la loro presenza in manifestazione. Ecco, andiamo subito sul concreto. Da dove si parte? Anche per l'appuntamento c'è ancora tempo per chi volesse venire da Milano, ma anche magari da vicino Milano. Dove vi trovate? Si parte da Piazza Duca d'Aosta, che è il piazzale davanti alla stazione centrale di Milano. E di lì si formerà un corteo che arriverà in centro città. Insomma, avremmo voluto passare per una delle principali vie dello shopping, che è Corso Buenos Aires, che oltre allo shopping ospita un traffico che ne fa sostanzialmente il boulevard commerciale più congestionato d'Europa, ma c'è stato detto che di lì tra l'altro solo le automobili. Io non lo sapevo che c'era questa cosa che avevate chiesto, però bisogna dire anche che Corso Buenos Aires, per chi ha un po' seguito a Milano ma anche fuori, è una strada su cui il comune ha iniziato a proporre timidamente delle chiusure del traffico, no? La domenica c'è tutta una trattativa in città, qui si misura proprio la difficoltà a passare ad una mobilità nuova. Vabbè, ma insomma, questo era solo un inciso. Vabbè, sì, c'è questa idea che per andare a fare shopping ci voglia per forza la macchina. Infatti il risultato è che la gente poi va nei centri commerciali, perché lì almeno davanti ai negozi del centro commerciale le macchine non ci sono. Si parcheggia fuori e almeno si riescono a fare due passi. Certo, è vero, è incredibile. Poi dove invece si riescono a fare le zone pedonali, il commercio va alla grande e questo lo sperimentano tutti. Però il passaggio è sempre faticoso. L'obiettivo di questa manifestazione è andare oltre la giornata di oggi e arrivare con una petizione, progetti di legge. Qual è lo sbocco di tutto questo, Damiano? Ma intanto abbiamo un progetto di legge che verrà illustrato proprio oggi, di iniziativa popolare, che vogliamo sottoporre a questo governo, per premiare le città che raggiungono obiettivi qualificanti di quello che viene chiamato lo split modale, cioè il numero di viaggiatori in macchina rispetto al numero di viaggiatori complessivi, cioè ridurre fortemente il numero di automobili circolanti in rapporto a quelle che sono le altre modalità di circolazione, bicicletta, piedi, mezzi pubblici, piuttosto che altre forme di condivisione dell'auto più evolute, più intelligenti, che già oggi sono accessibili ai cittadini. E questo è un aspetto qualificante. Poi insomma, c'è anche un'idea di orientare le politiche economiche in materia di infrastrutture e di mobilità del nostro paese, perché insomma, stiamo parlando di un paese che sta facendo austerity, taglia da tutte le parti e non si capisce perché non tagli invece sulle infrastrutture di tipo stradale, che sono ancora oggi una grande voragine di spesa, in molti casi anche ingiustificata. Noi qui in Lombardia abbiamo un concerto di autostrade che non si giustificano se non con appetiti di concessionari, perché di fatto vanno a coprire zone di Lombardia in cui non c'è una domanda di traffico. E sarebbe bello invece che gli appetiti delle imprese convergessero anche su idee nuove, no, di mobilità più efficienti, per esempio linee ferroviarie per i pendolari, eccetera, anziché, come ricordavi tu, solo la rete stradale. Potrebbe essere una grande occasione anche economica per il paese, per rilanciarsi. Io dicevo che, sentendo il discorso di Letta in Parlamento, devo dire che da questo punto di vista proprio calma piatta, cioè non c'è un'idea per invertire la tendenza e per insomma, dare un contenuto a questi progetti per la crescita e per l'occupazione. Non si sa bene in quali settori dovremmo creare occupazione. Questo potrebbe essere un grandissimo esempio. Vabbè, insomma, intanto grazie per averci ricordato tutto questo. Tu sei già nei paraggi lì del... Stiamo caricando bandiere, striscioni, palloncini e quant'altro per raggiungere Piazza Duca d'Aosta. Mi giro verso l'esterno, vedo che è anche una bella giornata a Milano, per ora regge. Oggi è bella giornata, non c'è neanche vento, quindi gli striscioni non volano via, è proprio le condizioni ideali per una bella manifestazione colorata, pacifica, divertente, che porti temi che hanno molto a che fare con il futuro del nostro paese, anche con le possibilità di sviluppo di nuove modalità di intendere. E noi speriamo anche che stasera ci sia qualche cronaca, ci sarà sicuramente sui telegiornali, qualche articolo che vada anche un po' al di là, no, della mera cronaca, e che siate talmente tanti che se ne parli. Grazie per essere stato con noi, Damiano Di Simine, buona manifestazione. Grazie a voi, come sempre. Il presidente di Lega Ambiente Lombardia, appuntamento alle 14.30 per una mobilità nuova. Insomma, siamo partiti un po' dense con Michael Jackson, Non fermarti finché non ne hai avuto abbastanza, ed è quello che è accaduto in questa incredibile storia di Davide contro Golia. Siamo a Mestre e a Venezia, un imprenditore tramite il suo avvocato è riuscito a pignorare niente po' di meno che Deutsche Bank per degli interessi illegali che gli aveva estorto un sacco di soldi. Salutiamo Daniela Iese, che è l'avvocato di questo imprenditore. Buongiorno Daniela. Buongiorno a tutti, buongiorno. Quanti soldini siete riusciti a recuperare dopo la sentenza, intanto? Ah beh, tanti, perché con la sentenza siamo riusciti a recuperare 96.000 euro, ma lo stesso imprenditore ha iniziato con la sua battaglia, che è veramente una storia di tenacia e caparbietà, sì. Ha iniziato nel 2005 ed ad oggi è riuscito a recuperare circa 1,5 milioni di euro che ha così potuto reinvestire nelle sue aziende. Cioè, pensate, quasi si parlano di un sacco di soldi che questa banca aveva preteso illegalmente. Come? Tramite questo famoso meccanismo dell'anatocismo. Avvocato, a lei di molti sanno purtroppo, se ci sono imbattuti, di che cosa stiamo parlando, altri no. Cioè, è un modo di pretendere illecitamente gli interessi. Poi c'è tutta una questione di sentenze, di decreti legge, per cui in pratica ancora oggi questa cosa è in parte possibile, in parte no. Nel caso del suo assistito, cosa è successo? È una modalità di calcolo sostanzialmente che prevede la capitalizzazione ogni 3 mesi degli interessi debitori, per cui l'interesse debitore diventa di nuovo capitale e forma nuovo interesse e ingrandisce, debitore. Gonfia. E quindi il monte degli interessi debitori aumenta. Quello degli interessi creditori evidentemente no. Oggi non è più possibile perché fortunatamente la Corte di Cassazione ha invertito quella che era un'abitudine degli istituti di credito, stabilendo che se gli interessi debitori vengono capitalizzati con specifiche modalità, quindi ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno, la stessa cosa deve avvenire anche per quelli a credito. Attenzione però, ci deve essere una previsione scritta, valida, sottoscritta da entrambe le parti, deve esserci effettivamente la previsione di un interesse a credito, perché altrimenti se è solo quello a debito evidentemente c'è una disparità di trattamento. Ora ci siamo un po' persi su questi conteggi, però non importa, l'importante era citare il caso per far capire agli ascoltatori sia chi ci si è imbattuto, chi no, insomma, della questione di cui stiamo parlando. La cosa incredibile è che insomma, dopo anni di battaglie legali, voi siete riusciti con una sentenza poi a presentarvi proprio, io non so se direttamente agli sportelli della Deutsche Bank, ripeto, niente po' di meno che, a pretendere l'esecuzione di questa sentenza. E quindi diciamo è un messaggio positivo per chi ha avuto a che fare sfortunatamente in questo modo negativo con le banche, che ce la possiamo fare. Assolutamente sì, ce la dobbiamo fare, soprattutto in momenti come questo in cui l'accesso al credito è difficile. Le aziende hanno la necessità di controllare effettivamente la spesa e controllarla con attenzione. Sono tantissimi i casi che riguardano imprese che esposte nei confronti del sistema bancario, ma anche imprese che così non sono, semplicemente riverificano la tenuta dei conti e si rendono conto di aver subito addebiti che in realtà non avrebbero dovuto subire e che legittimamente gli devono essere resi. Sono tante le norme che tutelano l'utente del servizio bancario e che vanno fatte valere sostanzialmente. Ecco. Mi sovviene la storia di coraggio, di caparbietà di due imprenditori tessili in età avanzata. Avevano letto, faccia conto, nel 2005 sì. Di un altro pignoramento alla Banca Intesa, in quel caso, sì. Eseguito da noi a seguito di una sentenza con cui il Tribunale di Milano condannava quella banca a pagare circa 50.000 euro ad un imprenditore commerciale. Sì. E quindi? Insomma, i due fratelli avviarono 7 cause con i maggiori istituti di credito italiani, molte le abbiamo già definite con degli accordi in un paio di anni. Per 3 si sono dovute attendere le sentenze, ma ad oggi hanno recuperato 1.300.000 euro. Va bene, insomma, in bocca al lupo per le prossime cause, anche se forse non ne avete neanche bisogno perché andate fortissimo già da soli. Grazie Daniela Iese. Grazie a voi, grazie. Avvocato di Mestre, questa era la storia, Davide contro Golia, l'imprenditore che è riuscito a pignorare Deutsche Bank per quasi 100.000 euro, ma il recupero era molto di più. Adesso, prima di andare in pausa, vogliamo sentire un ascoltatore, ce la facciamo? Luciano che ci chiama da Ascoli Piceno all'800240024. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Eccoci. Prima di tutto mi scuso perché non parlo bene italiano, no? Va bene, vediamo cosa possiamo fare. E comunque io, perché mi è venuta in mente una idea così, visto che Berlusconi sì. parla tanto di sto IMU, ma oramai gli italiani abbiamo pagato sto IMU, diciamo, no? Io pensavo che a porta di, visto che il sacrificio una volta abbiamo fatto, sì. non è che possiamo dare questi soldi a disoccupati, tipo un prestito per aprire un'azienda, una impresa di pulizie, una qualsiasi cosa, visto che gente muore di fame e non c'ha nemmeno i soldi per aprire una nuova azienda, diciamo, no? Va bene, Luciano, anche bella idea. Insomma, devolvere i soldi dell'IMU, almeno magari su base volontaria, chi volesse, pagato, per no? aprire dei fondi per creare lavoro per i disoccupati, per i precari, che sicuramente tra tutti sono quelli che se la passano peggio. 800 24 00 24 per intervenire in diretta e poi su Facebook si può fare trattino Radio 24. Venite, lasciate i vostri messaggi, le vostre buone notizie che poi durante la settimana andiamo a vedere e prendiamo spunto. E questa settimana non abbiamo preso nessuno spunto, però altre volte sì, vi citeremo. E poi su Twitter si può fare 24. Abbiamo ancora qualche ascoltatore in linea. Chi sentiamo? Federico da Roma. Buongiorno Federico, io oggi ho chiesto anche che cosa ne pensate del governo Letta, visto che siamo nel tempismo, no, dell'insediamento, e poi adesso con i sottosegretari è tutto bello fatto e compiuto il governo. Federico, lei per cosa ci chiamava? Io volevo sapere se si può fare un passaggio, diciamo, di tassazione da indiretta a diretta, e quindi fare in modo che tutte le ricevute fiscali siano scaricabili, in modo che sia monitorabile a quel punto tutto ciò che viene speso e viene venduto. Questa è una vecchia proposta che circola, che viene un po' dal modello, credo, americano. In effetti ha una sua efficacia, non si capisce perché non sia mai stata fatta, ci sono dei motivi sicuramente economici e tecnici. L'altra cosa che circola invece forse più nuova è quella di diminuire l'uso del contante e quindi sì, avere la tracciabilità tramite i metodi di pagamento. Federico, grazie. Andiamo grazie anche Ciro da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno e buon lavoro per tutti quanti voi. Volevo chiedere, cioè il mio pensiero era questo, sì. se era possibile, visto che il governo sta partendo e mi auguro che parta bene perché le cose non stanno bene, se si potevano dimezzare gli stipendi per 3 anni, cominciando dai circoscrizionali, cioè tutti quelli impegnati in politica, per 3 anni, dimezzarlo, in modo che questi soldi verrebbero poi a defiscalizzare le imprese e incrementare il lavoro per chi le apre. Questo, se fosse possibile una cosa del genere, anche ai grossi funzionari regionali, provinciali, comunali, che prendono soldi in quantità, che potrebbero dimezzare lo stipendio, penso che ce la farebbero a vivere comunque, non è che solo per 3 anni, poi dopo riprendere le cose come stanno. Va bene, vabbè. Ciro, grazie. È un pensiero. Certo. Vabbè. È giusto, giusto pensarci, insomma, perché poi ci si lamenta sempre di tutto, però poi bisogna provare anche a trovare delle soluzioni. Ci piace proprio fare questo. Non dico di togliere, perché onestamente ognuno fa il proprio lavoro. Eh no, certo, non è che si può fare a meno di pagarli. Però dimezzandoli, penso che gli stipendi che prendono ce la potrebbero fare a vivere un poco più ristretti per 3 anni. Che ci sia da farla questa cosa qua, mi sembra chiaro. Grazie Ciro, l'abbiamo capito quello che lei ci voleva dire. 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra poco. Adesso un prossimo ospite. Ritroviamo con piacere Andrea Segre, buongiorno. Buongiorno. Fondatore di Last Minute Market e preside di Agraria all'Università di Bologna e animatore, tra gli altri, di questa iniziativa per una carta per azzerare gli sprechi negli enti territoriali italiani, gli sprechi di cibo soprattutto, ma non solo. Un'iniziativa che va avanti da tempo. Ieri ha firmato anche Milano, città grande. Bella cerimonia, Andrea? Bella cerimonia, sì, più che importante perché poi Milano è sede di Expo, il tema di Expo è nutrire il pianeta energia della vita e il primo, diciamo, comandamento laico dovrebbe essere non sprecare il cibo e quindi è stata una firma importante quella di Pisapia, peraltro alla presenza di Sala e della Bracco, quindi insomma Expo sarà coinvolta in prima linea su un'azione che poi riguarda a tutti, perché gettare via del cibo ancora buono, oltre a essere eticamente e in questa fase di crisi, diciamo, non proprio il massimo, diciamolo, significa produrre più rifiuti e quindi inquinare e sprecare anche delle risorse. Suolo, ecco, perché acqua. È giusto, è importante dire anche questo, perché al di là di una scelta etica personale contro lo spreco, che è giusto, come dicevi tu, di adottare come stile di vita, c'è anche proprio una questione economica, perché ogni giorno di più sembra che ci accorgiamo che il tenore di vita che abbiamo avuto sin qua non siamo sicuri di potercelo mantenere ancora per il futuro. Allora la prima cosa da fare è proprio questa: azzerare gli sprechi. E questa carta che tu vai promuovendo serve proprio per inserire ai massimi livelli di priorità nei comuni questa idea, perché non è che si può fare solo con scelte individuali, ci vuole una cosa di sistema. Cosa si impegnano a fare i comuni che aderiscono alla carta, Andrea? Intanto questa carta deriva da un rapporto di iniziativa, o meglio una risoluzione del Parlamento europeo che noi abbiamo promosso 2 anni fa, votata a Strasburgo in plenaria, dove ci sono un elenco di misure concrete, adesso ne posso citare alcune, che tutti noi, a partire ovviamente dagli Stati, possiamo, diciamo, adottare per ridurre, obiettivo dimezzare entro il 2025, gli sprechi di cibo, che poi significa acqua, energia e tutto il resto, mettere in ordine le etichette che ci confondono, inserire sistemi di recupero tipo il last minute market per dare a chi ha bisogno, avere un comportamento, diciamo, più sostenibile dal punto di vista alimentare, dare più valore al cibo invece di riempire all'inverosimile i carrelli. Adesso poi non si fa più perché siamo in crisi di cibo, peraltro anche cattivo, diciamo, di cibo spazzatura. Ecco, cerchiamo di comprare ciò che ci serve e mangiarlo tutto naturalmente, in modo che poi diciamo le nostre comunità stiano meglio, perché poi già è bene, fra l'altro, oltre a favorire un tipo di produzione e anche un tipo di occupazione, star bene noi di salute e anche l'ambiente, cioè il pianeta sta un po' meglio. Quanto sta permeando questa cosa qua, non solo i comuni, adesso siamo a quota 256 se non ricordo male? Sì, beh, adesso il numero sono 265 con Milano, poi adesso firma tutta la provincia di Macerata, arriveremo al 20 maggio a 1000 comuni, non soltanto italiani. Il numero è, diciamo, è poco importante, è che è un po' un'onda, diciamo, sì, piccole, cioè, diciamo ancora, che si sta espandendo. Ecco, l'obiettivo che sia un, diciamo, un oceano che in qualche modo ci sommerga tutti, però di cose positive, insomma. E vi ricordiamo ancora i nostri contatti su Facebook, si può fare trattino Radio 24, venite a fare mi piace, così resterete in contatto e potete anche lasciarci le vostre buone notizie durante la settimana. Su Twitter si può fare 24. Andrea Segre, abbiamo appena sentito che molti volevano come ministro dell'ambiente, insomma, così nelle fantasie, insomma, di alcuni forse elettori, la pagella di sostenibilità del governo Letta dopo il discorso di insediamento è stata questa: c'è poco, ha detto, lapidario, non è molto incoraggiante, però ha detto aspettiamo e vediamo. 800 24 00 24, ci chiama Danilo dalla provincia di Varese. Danilo, buongiorno. Buongiorno, velocissimamente, allora, sì, secondo me tutto ciò che è lavoro non tangibile materialmente, io sono libero professionista, quindi prestazioni professionali, intellettuali, devono essere totalmente scaricate, perché non c'è la possibilità di proprio a livello tangibile di verificare che tipo di lavoro è stato fatto. A lei piace questa parola tangibile, eh? Sì, perché ritengo che sì, io faccio libero. In che problema, settore? In che ambito? No, io sono geometra. Però il mio problema non è fare le fatture, il mio problema è che il privato viene e non vuole la fattura. E io mi trovo a disagio, perché io con quella fattura lì, io ci pago la mia pensione, perché alla fine la gente non pensa a questo, io ci pago la mia pensione. Per cui vorrei che il cliente, quando viene da me e io gli dico la fattura è X, mi paga tranquillamente, perché sa che potrà scaricare tutto. Riguarda i lavori non tangibili. Per quanto riguarda, per esempio, invece l'edilizia, sì, io ho pensato una cosa: quando un privato fa una casa, se vuole l'agibilità, alla fine dei lavori il comune ti rilascia l'agibilità, e chi ha fatto la casa come privato deve portare tutte le fatture, da chi ha fatto il progetto all'ultimo che ha messo l'arredamento, e allora lì ci sarebbe la possibilità di verificare se il precista ha fatto la fattura, questo ha fatto la fattura. Quindi tutto ciò che non è tangibile nell'ambito professionale, riscontrarlo così. Nell'edilizia si potrebbe utilizzare questo metodo, visto che nell'edilizia c'è, insomma, la gente sopravvive in qualche modo, quindi è un punto un po'... Vabbè, insomma, abbiamo capito due cose: che a lei piace usare la parola tangibile e che si può fare qualcosa di più sul campo del recupero delle spese per i servizi tramite, insomma, la deduzione o quello che è dalle dichiarazioni dei redditi. Una cosa che in Italia si fa ancora forse troppo poco, ci sono dei limiti. Io ripeto, un modo sarebbe quello di limitare l'uso del contante, sono d'accordo con chi lo promuove, e allora lì la tracciabilità sarebbe inevitabile attraverso altri metodi. Comunque, grazie Danilo. Adesso invece, visto che, insomma, siamo, anche se l'estate tarda ad arrivare, consigli per i vostri prossimi viaggi. Giustamente mi fanno notare, insomma, dalla regia, che l'estate tarda ad arrivare, forse a Milano, ha tardato un pochino, però altrove, il centro-sud, è arrivata alla grande. Beati voi che ci siete già in mezzo. Più che un consiglio per un viaggio, un consiglio per una modalità di viaggio. Se andate su internet e digitate angeliperviaggiatori.com, trovate un sito che vi dà la possibilità di fare che cosa? Lo chiediamo ad uno degli animatori di questa iniziativa, Stefano Consiglio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che è docente, tra l'altro, diciamolo, di organizzazione aziendale all'Università Federico II di Napoli, nel campo proprio della cultura, e tra i fondatori di questo sito. Che cosa consente di fare il sito? Ma il sito consente di fare una cosa molto semplice, dato che per molte persone, me comprese, i viaggi più belli sono quelli che si fanno nelle città dove ho un amico. Dato che non sempre conosciamo persone nelle città che stiamo per visitare, Angeli per Viaggiatori ci dà questa possibilità. di trovare un amico, un angelo. Un amico, qualcuno che ci dà un po' di suggerimenti, perché molto spesso inondati da informazioni, non guide monumentali, gigantesche, cioè abbiamo bisogno di qualcuno che sul posto ci dica piccole dritte, qualcosa di più aggiornato e qualcosa di più, magari quello che noi auspichiamo sempre in queste conversazioni tra angeli per viaggiatori, è che poi queste due persone che hanno dialogato in fase di programmazione del viaggio, con conversazioni che possono essere visibili da parte di tutti, in questo momento sulla nostra home page c'è una conversazione su Marrakesh, un'altra su Barcellona, una su Copenaghen, una su Genova, una su Ischia e un'altra sulla Valle d'Aosta, queste sono le ultime conversazioni. E quindi intanto uno può anche vedere quello che dicono gli altri su una città che magari può ispirare dagli altri e poi magari contattare il proprio angelo. Quante città ci sono sul sito che dove si possono trovare gli angeli? Noi sul sito abbiamo una mappa che voi potete andare a vedere, dove potete osservare che l'Italia è abbastanza ben coperta. Noi abbiamo all'incirca in tutto il mondo circa 350 città con almeno un angelo presente, quindi possiamo spaziare. Beh, insomma, non è poco, è 350. E in Italia invece in Italia tantissimi. Noi abbiamo all'incirca 200, perché ovviamente siamo prevalentemente presenti in Italia, sì. E tutte le regioni sono coperte, ovviamente nelle città più grandi, Napoli dove è nato il progetto e dove, confermo, fa caldo e si va a mare, sono quasi 700, ma sono più di 100 gli angeli a Roma. E la cosa bella, purtroppo abbiamo poco tempo, dobbiamo chiudere, che su angeliperviaggiatori.com trovate angeli anche in base agli interessi. Certo, sia agli interessi che alle lingue parlate, quindi è possibile... Se ho figli, voglio sapere come si visita Marrakesh, se uno ha dei figli, se uno ama la bicicletta, tutte cose così. Insomma, andate sul sito, fatevi un giro e vedrete che ne scoprirete delle belle. Intanto grazie a Stefano Consiglio, che ci ha raccontato anche questa iniziativa, un paio d'anni che c'è, sta decollando in Italia. Io mi fermo qua, ringrazio per questa settimana Guido Scotti, Valentina Magri e Giorgio De Luca in redazione, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Paolo Corleoni in regia. Noi ci risentiamo domani alle 12 su Radio 24. A me mi trovate anche su Twitter @AleMaurizzi. Buona giornata!